3, 4, 5, 6, bla bla. Quindi sopra, Non mi ricordo quel che io. È vero, Buongiorno. Simpatico, quindi. Chiaro. Come accorgi con la parete? Sto portando bene. È meglio. Quindi non fa più quel difetto di prima che scivo strano, graffiante, eccetera. Continuo a parlare, figura che tu è. Mi sono smontato, ho dovuto smontare la porta. Lasciare la ventola e pulirla bene. Meno male, abbiamo fatto pure la ventola di motorino. Pensavo che fosse motorino avvicinato, invece era bloccato dalla polvere. Thank you. 10, c'è qualcuno? Antonio stava chiamando un attimo fa. Ciao già. Ciao Marco. Mi ha detto di entrare e poi non è entrato. No, no, ha chiamato un istante fa già, probabilmente è come... Aspetta, c'è mia cognata, è arrivato il bambino. Sto facendo roba qua, ciao. E a lui gli è arrivato il bambino per quello che ha staccato. Vabbè Marco, dai, fatti sentire. Oh, l'antenna sta andando male. La tua, sta andando male. Ehi, adesso per esempio va bene, però quel falso contatto che c'era si è ripresentato, perciò io fino a ieri notte ho verificato e c'era 2 e 7 di stazionarie. Poi, come per magia, di nuovo è tornato normale. E l'antenna sta cominciando a cedere, d'altronde è un'antenna di plastica. 10 anni si è ripagata, dai. Metti la lema come ce l'ho io, va benissimo. Oppure ti metti la grazioni. Sai cos'è, pesa troppo. Io se metto antenne leggere, un'antenna uguale o simile, magari senza scendere a livello di Venom, peraltro la Venom ce l'ho già, nuova, non farei altro che piazzare quella, isolarla bene, però la Venom non mi ispira già, quella dura da Natale a Santo Stefano, a Verumi. Marco, la Venom secondo me è un'antenna, diciamo, di soccorso, quando non funziona un'antenna ti metti l'altra, però solo di emergenza, va. Non è un'antenna da lasciare fissa, perché è fatta con un filo fino fino, l'hai visto? Anzi, me la manda tutto, mi pare, aperta. Sì, sì, esatto, c'ha questo l'anima di un rocchetto di nastro isolante, no? L'anima in cartone con questo filettino sottile avvolto. Cioè io mai ne avevo visto antenne CPT, ma questa la Venom le batte tutte come bobina. Eppure va bene, perché ce l'aveva, non so se ce l'ha ancora, ce l'aveva Tonino, andava bene, sparava tra le parti, solo che sin quando dura dura, poi ce l'aveva anche Franco, ma detto che l'ha trovato tutta la pratica. E quando ha piazzato l'antenna che avevo io, la, come si chiama, la Game Master, quando ha piazzato quella, ha tolto una vena, non doveva andare a me, ma era deciso che era tutta la pratica. Dipende, secondo me nei giunti sì, quindi bisogna, anche se la metti temporanea, bisogna isolare benissimo i giunti dello stilo e boh, e che altro, non saprei. Il PL, vabbè, al limite il PL, quello è indispensabile. E affidarsi alla fortuna, certo, come antenna provvisoria può andare anche bene, molto provvisoria. E infatti non è un'antenna da lasciare fissa, anche se Franco l'ha tenuta qualche anno, è la verità, perché l'abbiamo messa insieme, quindi è già 3 o 4 anni che l'hanno messa. Ah, quindi un po' la tenuta, sai cos'è, la qualità costruttiva secondo me è inferiore a quella della Energy alias Sirio. Vediamo se Antonio è rientrato. Antonio? È arrivata la cognata col bambino, quindi sicuramente c'è il bambino adesso, capito? Cosa ti stavo dicendo, Marco? Niente, sì, a me non è un'antenna che si può utilizzare, diciamo così, provvisoriamente, poi metti quella che devi mettere. Ma ci sono antenne che vanno bene, Marco, e non sono tanto pesanti. Ma perché paura di questo fattore che sia pesante l'antenna? Ti spiego, io non voglio tirantare, assolutamente, piuttosto rinuncio all'antenna, ma niente tirante, quindi niente roba pesante. Però mi è corto, mi è 3,70 m, buccia e tutto. Ed è sollevato da terra, mi pare circa 1 metro il palo, capito? Quindi 3,70, 4 metri qualcosa, dai, magari non è 1 metro pieno nemmeno. Capito già, roba leggera, non voglio elicotteri sul terrazzo. Questa cosa qua devono fare ancora il gabbiotto, non so di che morte dovremmo morire. Magari ne boccano il duzzo, boh. Vabbè. Ma magari con l'aggiuntura che gli hai fatto, controlla con l'aggiuntura che gli hai fatto dove ce l'avano rotta gli operai. Anzi, quella già, pochi giorni fa mi l'avevo tutta svitata e disossidata. Devi farvi vedere l'ossido che c'era, era tutto bianco. E tutto fatto il barilotto, il PL dentro e fuori con quel Drigot disossidante, però con il punto debole, capito? È che qua ancora non è finito del tutto, hanno fatto i lavori da 110, però devo fare lavori interni al terrazzino, tipo intonaco, pittura, quindi non è finito del tutto, capito? Siccome verranno prima o poi altri operai a fare roba, non voglio mettere, non voglio isolarmi il barilotto ancora, voglio che sia una cosa per cui se devono avere il campo libero di passare lo posso, lo stacco e porto il cavo dentro, capito? Ho capito, hai fatto una cosa provvisoria, ma così se non lo isoli si ossida di nuovo, come quello è il problema. Quello è sicuramente però che ti dà problemi, perché l'antenna non pensa, se tu non vengo uscire da altri anni, tu eri sempre meravigliato. Ma c'è un limite già, cioè se una mantova ti dura 20 anni o anche di più, un'antenna di chicchia come la Energy, anzi ancora meglio della Venom, per dire, la Venom penso non sarebbe durata così tanto. Poi una cosa, io mi ricordavo che qualcuno aveva avuto problemi caricando la Venom di Watt, che vabbè non è il mio caso, però aveva avuto problemi, gli salivano al stazionario, ti risulta? Non mi ricordo chi è però. Quella di Blanco era 1-1 di stazionario quando l'ho messo, 1-1, andava a stazionare di luna, ma la verità per quello no, però magari quella lì era di pettone, che ne so, può succedere. E comunque Marco, adesso ti puoi fare anche un diplomo volendo, che va bene lo stesso risultato. Game Master, Marco, Game Master, non sbagli. Ciao Gianni, ciao Marco. Ciao Giulio. Ciao Giulio, avevate parlato, avevate ripreso assieme con Gianni e sotto sentivo qualcuno, infatti avrei rilanciato chi voleva entrare. Allora Giulio, ti spiego, non mi piace proprio come antenna, mi piace l'alluminio, non mi piace questo tubo in plastica o quello che è con questo cavo dentro. E tu dici, ma tanto che te frega, l'antenna deve radiare, cosa te ne frega se è brutta? No, non mi piace Giulio, non ce la faccio. Quello d'accordo, quello è un altro discorso, però con la Game Master non hai nessun tipo di problema, perché la installi e sei già a posto, non devi regolare niente, e non è vero, funziona alla grande, io ce l'ho già parecchi anni, per cui va sempre bene, non c'è problema, guarda che non te ne penti, non so, costa un pochino più della quell'altra che hai adesso, questo sì, però stai tranquillo che funziona alla grande, leggera, in qualsiasi momento la scendi e non devi mai ripararla, mai, mai, mai, basta che tu quando la installi ci metti un rinforzo nelle giunture con un tubo di elettricisti, quelli da impianti elettrici esterni, una quarantina di centimetri, una tratta in tutte e due le parti, sotto e sopra, e lasciala fare, che anche se soffia il vento a 100 km, va benissimo, guarda. Sì, magari quello sì, c'è anche a mezz'onda peraltro, se uno non la vuole lunga lunga si a mezz'onda e si accontenta alla fine, tanto mi la 27 io mi pare che era morta da giorni, e io quello lascio acceso, ma a parte i problemi in antenna anche di ricezione, qua sentivo giorni e giorni di proprio vuoto, il 10, il 12, forse anche il 23 tutto vuoto, almeno quando carellavo, e quindi io non ne vale manco più la pena, ne stavo parlando con un'altra persona. Bene, Gianni, e tu i tuoi problemi d'antenna, avevi scoperto che cos'era? Era uno spinotto, era l'accordatore, ti ricordi quando ti segnava stazionaria? Sì, ho fatto il lavoro, ho abbassato l'antenna e praticamente con Franco abbiamo trovato l'inghippo. C'era una fascetta, allora c'era il cavo che entrava nella molla e praticamente era stretto dalla fascetta, perché l'attacco della carica è fatto così. cosa è successo? Che questa fascetta si è arrugginita, perché hanno messo una fascetta, si sono persi incazzate, perché l'altro era acciaio, la parte di sotto, la fascetta l'hanno messa in coso, l'hanno messa in ferro, quindi si è arrugginita, si è spaccata ed è fuoriuscito il filo, capito? Basta, è bastato reinserire di nuovo il filo, mettere una fascetta in acciaio, stringerla e le stazionali sono 1-1 adesso. Buono, dai, l'importante è aver risolto. Anche perché quella c'è una bella antenna quella, capito? Sì, no, ma si perdono le incazzate, capito? Hanno fatto tutta la parte dove attaccare i radiali, tutto l'acciaio. E si sono persi in una fascetta che praticamente stringeva il cavo. Poi hanno fatto un metodo strano. Praticamente il terminale della molla viene inserito il cavo, capito? Il terminale della molla è più stretto con questa fascetta. Quella si è spaccata e abbiamo detto Franco Piano, vedi, la ringrazio Rodrigo di accordarla, di farla, invece era, non me l'ero accorto che c'era. E dopo l'abbiamo la sistemata, gli ho dato la fascetta d'acciaio, l'abbiamo messa, l'abbiamo anche isolata la fascetta, così almeno sta tranquilla. Riprendete con Giulio un attimo, che qua per poco non mi stacco le dita. Vai Giulio. Ma io la verità non me ne pento di averla chiamata, per me va benissimo, torniamo col discorso già, perché sì, a qualcuno è andata male, come anche a te ad esempio so che ti era andata male, ma evidentemente o sei stato sfortunato oppure era difetto dell'antenna, perché se no non è vero che va male, perché c'è gente che ce l'ha già da anni, piazzato, vedi Gianfranco ad esempio che abita a Monteolo, e Monteolo è abbastanza in alto, il vento ne prende e ha voglia. Poi c'è anche di cose, Eugenio che ce l'ha a Porto Torres, anche lì vento tantissimo, e devo dire che anche qua quando c'è vento soffia veramente forte, perché qui io sono libero da ogni ostacolo di vento, perché le case sono tutte alla stessa altezza, per cui se vedo dal terrazzo vedo il mare, tanto per darti un'idea, no? Se che il vento lo prende in pieno. Io ci ho messo quel rinforzo nel primo collegamento dei vari elementi dello stelo, l'ho messo 40 centimetri più o meno di tubo da elettricisti su misura, perché ci sono varie sezioni, no? Non è stato bene, alla grande, no? Si piega come la canna da pesca, però funziona benissimo, non c'è problema, va molto molto bene già. Ma probabilmente la mia è stata piazzata male, Giulio, perché c'erano le misure e non l'ho piazzata io, per cui sicuramente non hanno rispettato le misure, non hanno preso l'altro il foglietto con le misure, dice che la sapevano piazzare, poi è successo che sicuramente hanno messo un elemento più dentro di quello che doveva essere e l'altro l'hanno messo troppo in punta, quindi quello che era in punta si è spezzato. Sì, è probabile, oppure magari c'è stato sfortunato e ti hanno mandato un'antenna un pochino difettosa, perché può succedere anche quello, ma io devo dire che questa va bene sotto tutti i punti di vista, intanto funziona alla grande, puoi fare collegamenti senza nessun problema, anche ieri io ne ho fatto diversi collegamenti, ne ho fatto e alla grande veramente. E stavo dicendo, poi quando la piazzi non devi fare niente, l'hai montata ed è a posto, basta, non devi regolare stazionario, nulla di nulla, massimo 1-1 su tutta la banda, se poi usi potenza bassa come la uso io, 2 watt così, uno anche scarso di coso, di rosso, come cosa. Poi un'altra comunità qual è? Che è leggerissima da piazzare, la puoi piazzare da solo, non devi fare nessunissimo lavoro, non ci sono radiali, i volatili non si possono posare sopra, sì che va benissimo, va bene. Poi il fatto che non piaccia è un altro discorso, se per quello a me non mi piace nessuna antenna sul tetto, non mi piacerebbe nessunissima antenna, nemmeno l'antenna della TV a me mi piace sul tetto, perché secondo me rovina le stesse case a tetto, però siccome uno ha quella passione, l'antenna ci vuole e quella è per me l'ideale, guarda. Allora me l'avevano sconsigliato, perché già mi avevano detto che si vetrificava, si indeboliva, si vetrifica col caldo, perché resina si vetrifica e poi si spacca. E così mi avevano detto, così mi è successo. Si è spaccata, l'ho aggiustato una volta, poi la seconda volta mi si è spaccata di nuovo, allora ho perso la pazienza e l'ho data a Franco, Franco se l'ha aggiustata, perché avevo un amico che ci aveva quei pezzi lì, che gli si era rotto l'altra roba di quell'antenna, però quei pezzi ce li aveva intatti e gli ha piazzato quei pezzi e gli è andato alla grana. No, guarda, la mia è quella di Sandro di Porto Torres, che gli si era rotta a lui. Perché gli si era rotta? Perché lui l'ha tirata col filo, con la lenza grossa, no? Che si usa per pescare, e poi per la parte alta dell'antenna aveva tirantato. E allora aveva dato il vento, proprio al centro gliel'aveva rotta. E dunque, poi l'avevo data a me. Io ci ho messo un pezzo di tubo da elettricisti infilato dentro, che è preciso, perché si trovano di varie sezioni questi tubi, che poi tra l'altro costano la miseria, mi sembra che costano 60 centesimi una stecca lunga 2 metri, ti puoi immaginare. Ci ho messo un pezzo di quello, una tratta tutte e due le parti, addirittura non ho messo nemmeno il collare del suo originale, quello in acciaio o cosa sono, no, l'ho tratto e tutte e due le parti questo pezzo da 40 centimetri. Qui il vento ne può tirare quanto vuole, no, la piega, perché la vedo quando c'è vento che la piega, ma non succede niente. Perché? Perché è rinforzata proprio nel punto cruciale dell'antenna, oggi, e va benissimo. Ma non ti conveniva riempirla col coso, con il tirare spasso, metterlo dentro al tubo in modo che lo bloccasse bene, e il lasso magari poi te lo toglie. No, se la blocchi poi non se tu la riempi, cosa succede? Succede che poi non la devi smontare, non la smonti più, perché rimane tutta intera. Quando ci metti il poliuretano dentro, no, rimane tutta intera, no? Non è così. Io ho preferito fare così. E io ce l'ho già piantata almeno 4 anni, 5 anni, anni circa più o meno. Fatti vedere quando è che non ce l'ha più Sandro. Fatti un conto quanti anni è che sono passati, e da allora ce l'ho io, per cui vede bene che va benissimo. Guarda. L'unico problema in quarantena, sai qual era? Quando cioè, metti tu gli elementi uno dentro l'altro, nella posizione dove si collega gli elementi, e aveva solamente uno spacco solamente. In un primo momento quell'antenna ce l'aveva Luca Flipper, gliel'aveva data per ripararla. E cosa ha fatto Luca? Luca ha preso e gli ha fatto anche che uno spacco, e gli ha fatto incrociato lo spacco, e ci ha messo un pezzo di tubo o di pompa, non so di cos'era, che esteticamente a me non è piaciuta per niente, però andava bene, andava bene ugualmente. E io ne ho tolto quella pompa lì e ci ho messo un pezzo di questo tubo da elettricista rigido. E va benissimo già, proprio alla grande, veramente, guarda. Non deve fare niente, non deve fare manutenzione, non è vero che si squaglia la rete, nulla, perché io quando l'ho tirata giù, perché si era oscillato il bocchettone dove si avvita il PL, l'avevo pulito bene, tutto a posto. Ed era liscia, liscia come il vetro, proprio bella, senza un minimo di scalfittura. È meglio così da giù. A me la verità non mi entusiasmato molto, cioè come antenna va bene, come materiale che lascia un po' desiderare, ma sicuramente perché è stata piazzata male, perché la fretta di fare le cose e poi cioè, vengono fatte male là. Ma oramai c'ho questa qua, io adesso c'ho uno di stazionale, dopo che gli ho cambiato quel morsetto di Franco, perché io non ce la faccio più a salire così su, sono stato operato sulle gambe, lo voglio perdere l'equilibrio e cadere giù. lo credo, non ci deve rischiare niente, no? Quando fai questi lavori fate fare a chi è in grado di farli, nel senso che il giovane magari riesce, io lo stesso, tu pensa che addirittura io sul mio tetto mi sono fatto una passerella lungo i muri perimetrali della casa e posso salire con la massima sicurezza, anche perché le case sono in aderenza l'uno con l'altro, no? E dunque alla stessa altezza eccetera. E poi tra l'altro io tutto attorno anche il poggiolo, cioè, puoi immaginare, sì che non c'è problema, ma non ci seguo nemmeno, ho preferito mettermelo nel terrazzo, praticamente sul davanzale del terrazzo, lì ho messo due tasselli di quelli attrappano lunghi 20 cm, ho messo, li ho girati bene, li ho stretti e ho più pensato un tubo da 2,50 m. E le bassa, prima dove c'avevo la mantova tubo, era altissima, la mantova tubo tu pensa c'erano 6 metri solo di palo, ed era messa dalla parte più alta della casa, tieni presente che la casa mia da una parte è 7 metri di altezza dal suolo, dalla strada, dall'altra parte sono 10 metri e 50, per dirti, no, sì che la mantova tubo ce l'avevo dall'altra parte, nel punto più alto, oltre al tubo di 6 metri, invece questa è nella parte bassa, funziona benissimo, stazionarie non ne vedo mai su tutta la gamma, al massimo ripeto col baracchino che ho io un massimo 1,1 proprio, ma con la potenza che uso io 2 watt di solito come in questo momento, sempre uno di stazionare, uno giusto giusto giusto, per cui non c'è problema, meglio così che cosa vuoi di più. Ma perché quell'antenna è larga banda, capito? Puoi andare nei canali alti, eccetera. Spazia un po' su tutte le bande, capito? Sì, quello è vero, quello è ragione, è vero, quello è vero. Diciamo che funziona solamente in questa banda 10 e 12 metri. Da 10 e 12, 10, 11 e 12 funziona questa, è vero. Tant'è vero, quando io avevo il K avevo una ricezione limitatissima con la Game Master, mentre invece con la Mantova Turbo avevo anche la possibilità di trasmettere, e l'ho fatto tante volte, l'ho fatto anche in 45 metri, perché me ne andavo la mattina insieme ai radioamatori e ci parlavo dall'Alta Italia alla Bassa Italia, siccome c'era la accordatore antenna in quella radio lì, accordavo benissimo 9,5, 9,10 dall'alta alla Bassa Italia, tutte le mattine quando volevo mi facevo la chiacchierata con loro. Infatti va bene così, io non ci sono mai andato in quelle bande lì, ascolto la bandaccia, non ci va. No, adesso non è più possibile, no, adesso non c'è, perché qualcuno ha fatto deficiente, ha fatto, sai, con le grandi potenze, facendo gli stupidi. Vai fino in nera, non di cazzate. Prima invece, per anni, ti ricordi quello di Alghero, non mi ricordo, guarda che è deceduto quell'amico che parlava con noi, non mi ricordo. Lui addirittura andava anche in 88 metri, tutte le notti, tranquillamente. Lui era anche in 88 metri, oltre che il 45 andava anche in 88 metri per anni, eppure non è mai successo niente. Invece in continente qualche imbecille ha fatto lo stupido, ha caricato forte e hanno fatto interferenze chissà dove, non lo so, perché si dice che quella era una banda dedicata all'aeronautica, non lo so già, da una volta, boh, basta, chiuso tutto. Adesso che lì erano tutti pirati, compresi le vatture, non potevano entrare. Avanti, Antonio. Capo, lì c'è la cognata adesso, guarda a vedere come la radio, buona. Ehi, già si sente bene. Capo, dai, vi devo lasciare, buonasera a tutti. Dai, vi devo lasciare, che devo, c'è un attimo mia cognata, ci stiamo. Ciao ragazzi, va bene Antu, ci sentiamo. Ciao Antu, non sapevo che c'eri anche tu, dai, non lo sapevo. Ok, buona curaccia greca allora, dai, se stai uscendo. Vediamo se dentro Marco. E Marco c'è da fare con la madre magari. Infatti, sarà così. E va bene, comunque, sia se poi il fatto che non piace l'antenna è un altro discorso. Sempre quello, ripeto, come ti ho detto poco, a me non ce n'è una che mi piace l'antenna, nulla. Ma non l'antenna in se stesso, il sistema di che lo devi installare sul tetto, questa fare lunga lunga, ragazzi, per carità. Mi dà fastidio l'antenna di vedere le antenne della televisione, le parabole, figurati un po' se non mi dà fastidio l'antenna lunga 7 metri. Però avendo questa passione, questa la utilizzi, ma senza, diciamo, offendere troppo l'estetica della casa, eccetera, tutte queste cose qua. Anche per gli altri, poi è anche poco visibile, non è che sia. Mentre invece con la mantobatuba, verso la notte, quando c'era vento, mamma mia, un tormento. Un fischio lunghissimo quando c'era il vento, perché i radiali fischiavano già. Con la mia non so ben lamentato, eppure c'è gente che abita nell'attico, ma non ne ho mai detto nulla. Non lo so, perché io non posso sentire al terzo piano, però non si sono mai lamentati, poi sicuramente non si sente, perché se sarebbero lamentati. Vabbè. Comunque, magari una cavolata, basta scenderla e pulirla con l'antenna, va di nuovo bene, perché ce l'ha già 10 anni, mi pare. Lo so, quello sì, non c'è che dire, ma il discorso anche, perché non ti crea complicazioni. A me l'unica complicazione che mi è successa, sai qual era? Perché il PL era scoperto, ci avevo messo solo quel cappuccettino piccolino di gomma che c'era, e giustamente toccava anche l'acqua, e mi si era ossidato dove abita un PL, no? Allora cosa ho fatto? Ho preso, l'ho tolta, vediamo cosa è successo, l'ho smontata tutta quanta, per vedere cosa, niente, dentro non c'era nulla, solo che ho visto la fedettatura dove abitavo il PL, che era ossidatissimo, che non so come mai stava ancora funzionando. Avevo visto che c'erano delle stazionali, me l'hanno salite, l'ho preso, l'ho pulita bene, tranquillo, un po' di quel disossidante per contatti, tutto a posto, l'ho rimontata, e a voglia, la grande, non ho fatto niente, non è che ho riparato niente, non ho dovuto riparare niente. E adesso anche quello, per proteggere il PL ci ho messo 20 cm di tubo, sempre da elettricista, che il PL ci passa giusto come misura, e il tubo appoggia sotto il piattello, per cui quando piove il PL non si bagnerà mai più. Io quel cappuccetto di plastica duro anche dalla mantova, l'ho tagliato col taglierino e l'ho stretto bene, e il piede, poi gli ho messo un po' di coso di nastro vulcanizzante, tutto attorno, sopra il nastro vulcanizzante, tutto il nastro normale, che di quelli che attaccano, di solito il nastro si stacca, comunque invece questo qua è rimasto attaccato, è un nastro professionale da elettricista, di quelli che attaccano un bel... Sì, io lo so, quello vulcanizzante, sì, autodetringente, certo, quello va bene, no, ma io non avevo messo niente nel PL, per cui l'avevo infatti ho fatto un po' di forza per evitarlo, però, perché si era ossidato, e invece poi l'ho pulito e è ritornato nuovo, proprio come se non fosse mai successo niente. Gli ho messo un po' di disossidante per contatti, WD-40, che ce l'ho sempre io a portata di mano, e va benissimo, non c'è problema. L'ho rimontata come la prima, alla grande, e adesso è già un annetto che avevo fatto questo lavoro di restauro, chiamiamolo restauro, che poi non era proprio un restauro nel senso della parola, perché era solo una piccola manutenzione. È come quando dalla macchina ti manca l'acqua, che devi metterci l'acqua per il raffreddamento, oppure che ti sia abbassato il livello dell'olio, che devi fare il rabocco. Ecco, è una manutenzione del genere, Gianni, era una superata. E poi tra l'altro io cosa faccio? Mi metto la sedia, allungo il braccio e svito il PL, perché ripeto, ce l'ho massa, attaccata al davanzale della terrazza, si può immaginare. Ma come sto dire, mi ho chiesto dell'aria a Franco di quella ciglia. No, non ci sono mai salito verso casa, non ci sono mai, non sono più uscito, capito? L'unica volta che sono uscito sono andato qui da Globo a comprarmi delle scarpe e basta, niente di più. Ma sono andato anche insieme a mia figlia, tra l'altro. Sono in città, non ci sono salito già. Ah, neanche io non l'ho ancora fatta, ma gliela faccio, perché guarda, sembra una cosa da presa in giro, ho 30.000 chilometri nemmeno, 28 qualche cosa, e anche se a 5 anni la macchina, anzi quasi sì, praticamente la macchina non è stata usata più di tanto, perché io prima la usavo per lavoro, poi come ho visto gli imprevisti di salute, la macchina la usavo di meno, capito? Ok, sì sì, comunque mi sono fatto un giro sul computer e ho controllato proprio la macchina specifica, quella che ho io qua, e c'era scritto 90.000 chilometri, poi non lo so se effettivamente è così o meno, l'ho letto sul computer che si dovrebbe fare a 90.000 chilometri, quel tipo di macchina che ho io. Comunque quando salirò in città chiederò anche a Franco, certo. Certo che chiedo, ma ad ogni modo intanto ogni tanto andiamo alla Ford, anche l'ultimo tagliando che è stato fatto, hanno fatto tutto, ci hanno controllato tutto, anche la pressione delle gomme, tutto quanto. Dice la macchina è perfettamente a posto come quando è uscita da qua, sai, è una macchina che in città non ci cammina quasi mai, ma sono fuori, ad esempio oggi è da Alghero, ieri era a Tergo e poi a Usino, capito? Praticamente la usa mia figlia per lavoro, perché lavora in tutte queste località, capito? E a Tempio non ci sta più andando? A Tempio no, non c'è più andata, ci va di tanto in tanto quando che la chiamano, che deve fare qualche lavoro, ad esempio il comune, che so io. Adesso, oggi ad esempio aveva lezione, che lì fa anche l'insegnante, no? Di giardinaggio, eccetera, ed era ad Alghero. Ieri era a Tirgu, di mattina, la sera era Usino, per cui è sempre così, capito? Tutte le settimane la macchina cammina molto, la macchina cammina molto, e per quello ogni tanto in tanto, anche quando siamo di passaggio, entriamo alla Ford, dai un'occhiata, controllano 10 minuti, ti fanno pagare la miseria, ti fanno pagare, ti controllano l'olio, ti controllano tutto e dice a posto, la macchina a posto, capito già? Vabbè, ma non conviene mai fare la concessionaria questi lavori, perché paghi sempre di più. Io alla Fiat per fare un tagliando avevo pagato 350 euro e non l'ho più portata. Da Franco sai quanto mi ha fatto pagare? 150 euro che mi ha fatto un tagliando, cambio olio, filtri, controllo di tutte le pastiglie, eccetera, eccetera, pressione gomme, e cioè a me dava ti pagare. Lo so, certo, ma sono controlli di routine, così non è che siano riparazioni, no? È solo proprio un controllo, nel vero senso della parola, ti controllano le cose basilari, no? In genere tutto, ti controllano tutto, ammortizzatori, tutto, freni, tutto. C'era il freno a mano che era un pochino alto. Siamo entrati 5 minuti, non si preoccupa, niente, non fa niente, e non ha fatto fare nemmeno niente, l'hanno dato una regolata, l'ha presa a mano, perché quando lo tiravi si saliva troppo, allora era troppo, sì che si vedeva, infatti ha detto questo vuole un controllato, me la fa la porta, passando lì davanti, siamo entrati dentro, l'hanno controllato, l'ha presa a mano, voglio così, ah, sì, aspetti che glielo regolo, regolato, 5 minuti, non ti dico, non mi hanno fatto pagare niente, nulla. Beh, meglio così. Io mi ci sono andato a lavarmi la macchina, siccome dove vado io da un tagliando, dove ogni volta che tu lavi la macchina ti metto un timbro, e praticamente sono andato a lavarmi la macchina, stavo preso di soldi, ho detto no, non mi deve dare nulla, ce l'ha mangio gratis, sì, non mi mai vedo. appunto, sì che, vabbè, comunque, basta controllare sempre, fare le cose, poi tante volte qua ad esempio manca l'acqua per i vetri, la aggiungo sempre io, manca il liquido per il refrigerante, per il radiatore, e glielo aggiungo io, o il bidoncino, quello rosso, e glielo aggiungo io, quando, che poi non è consumo, a me è sempre allo stesso livello, ma comunque, e così via, conto anche una controllatina all'olio, per vedere la viscosità, eccetera, insomma tutto, diciamo che la macchina rimane sotto controllo, dai. E beh, è giusto che sia così, perché la macchina viaggia tutti i giorni, per cui è meglio tenerla sempre in perfetto ordine. E così anche l'altra io, anche se non la uso più come prima, la tengo sempre in perfetto ordine, non c'è problema, ho già. Eccomi qua, sono ritornato. Capo, buonasera a tutti. Che voce strana che si fa questo apparecchio? Sembri un cantante. Davvero? Kappa, ma io c'è tocca davvero però. Gatto. Oramai l'ho avuto, quindi la sua stanza la notto. Kappa. Hola. Andava, dai, è tutto. Funziona tutto, Roger, funziona. Buonasera Giulio. Lo sai che quello lì gli fa cambiare il colore? Sto cercando la funzionalità perché mi piace blu a me. Io non lo ricordo, anche bisogna che lo veda. Non lo ricordo. Ma non c'è la istruzione, io l'ho tutto. No, non c'è l'istruzione, no. Dimmi Giulio, avanti. Ho detto, se ne stai arrivando benissimo. Tutti e due con lo stesso segnale, tu e Gianni, uguale. Anche la radio tua è buonissima, non c'è problema. Va benissimo. Kappa. Sto usando un Cobra, sto usando. Quello è il microfono normale. Kappa, questo qua è il microfono suo, l'apparecchio. Io li attacchi a provare le 24. Non so se va bene. Dovrebbe andare bene, sì. Ma c'hai connessione a 48? Mi sa di sì. Prova bene. Dove ho io la stazione base? Kappa. Adesso proviamo, va. Mi sa. C'è quello lì o c'è quello del gas, non lo ricordo. Comunque se ha quello del gas e quelli di sopra, ma non sotto, gli attacchi quelli sotto sopra, non c'è da sbagliare. Fate il merito dei diritti. Vabbè, ce l'avevo qua, ce l'avevo nel tavolino e me l'ho tolto. Cobra lì, troppo ingombrante per me, no. Non mi vanno a genio quando sono troppo grande, a me mi basta così, uno da cosa, da vettura praticamente, un omologato piccolino, no, non c'è problema, va benissimo così, mi basta così. Ieri c'era una ruota grandissima, eravamo sul 20 685 in banda USB, una decina di persone da tutta l'Italia, Milano, Bercigli, Lecce, Palermo, insomma da tutte le parti, Novara, da tutte le parti, insomma tutta l'Italia già, e avevo fatto questo con questi, stavano parlando gli italiani, io quando c'è roba straniera non ci parlo nemmeno, intanto non li capisco, loro non capiscono me, io non capisco loro. Ma ieri c'era una ruota tutta di italiani, una decina di persone eravamo. Ma che ora? Ma guarda, adesso sono con l'M600, come? Come? 1-3-1-3. Abbassa per la pera, non parlare troppo vicino al microfono. Capo, un po' forte. No, perché ci passa la voce, se no. Già va bene, tu. Capo, dai. Adesso sto con le normale, sono con le M600. Oddio, non si tocca quello. Ma quando mai? Prendi questo, va, gioca con questo. Gioca con questo, tieni. E la gente deve tanto un cariolo. A una certa età, tutto bisogna guardare. Se lo buttano tutti in terra per sentire i rumori. Kappa, con la M600 come buona modulazione? Sì, anche tu. Meglio dell'originale? Sì, è più chiaro. Però va bene. Prova invece ne bevi più 4, quello modificato, vedremo, va. è per quello che bisogna stare molto attenti, perché, anche perché non vorrei che si facessero male, capito? Quando sono piccolini così loro lo sanno, toccano tutto, si possono anche far male, invece se il genitore è attento lo protegge. Va bene, va bene. E Antu, raga, non fa il vestino, raga, che già piano piano già cresce, non c'è problema, ci mancherebbe altro. Boh, il fatto che tocchi, non perdere la pazienza assolutamente, perché i bambini sono tutti così, anche noi siamo stati, anche tu, come io e come tutti quando eravamo bambini eravamo esattamente come tuo figlio in questo momento. Quando vieni più qua, non ce l'hai a produrre i bambini.